Il linguaggio violento a cui siamo abituati ci fa vedere il mondo formato di oggetti separati. Io, mondo, io, tu, altri. Colui che compie l'azione è colui che la riceve. Io amo te, tu ricevi il mio amore. La madre ama il bambino, bambino riceve, la madre dà. Nel metamodello 2 si cambia la prospettiva, non ci sono oggetti separati, ma ci sono soltanto flussi circolari. Non esiste io amo te, ma esiste c'è l'amore. C'è la danza dell'amore, partecipo alla danza dell'amore. Chi è il primo beneficiario della danza dell'amore che io innesco, che metto in pratica? Sono io stesso, perché io partecipo a questa danza. Se tu partecipi a questa danza, ne trai beneficio anche tu, perché tu stessa vuol dire che dai amore. Non esiste un dare e un ricevere, perché quello che io do, nel momento che lo do, partecipo alla danza del dare. La danza del dare, il primo a ricevere sono io. Mentre tu ricevi, tu stai dando a me che cosa? La tua gratitudine, ad esempio. Io ti do qualcosa e tu mi dai indietro la gratitudine. C'è una continua circolarità. Se invece io ti do qualcosa e mentre te la do tu non partecipi a questa danza, magari provi addirittura risentimento, che cosa mi succede? Che io percepisco di dare senza ricevere in cambio. In realtà io non sto dando. Perché non sto dando? Perché non sto partecipando a una danza del dare. E com'è possibile? È possibile perché se io fossi nella grande mente, io mi accorgerei che tu non stai contribuendo a questa danza e quindi non insisterei nella danza con te, non disperderei il seme. Ci sono persone che dicono di amare il proprio partner che però non li ama, quindi si sentono rifiutati e sono convinti di amare. Ma questo non si tratta di amore, inteso nel senso di danza. Si tratta di un altro tipo di danza, si sta dando un'etichetta, amore, a un tipo di danza che è del tutto diverso. È la danza di chi insegue qualcuno il quale scappa. È un altro tipo di danza completamente diverso, che è un tipo di danza distruttivo. La persona dice di amare, ma amare in questo senso non è, come vedremo, un proper name, cioè un nome corretto.